la notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, e cresce il desiderio, cresce il desiderio e il veleno davanti le vetrine dell'impero. Tranne mosse in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa a cascia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello stato uguale zero. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di sotto a tanta merda. Vedi com'è poetica questa fascella. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda. E questa era la sigla degli Assalti Frontali per la trasmissione di Sapienza Clandestina ogni mercoledì alle 10.30. Intanto diciamo, iniziamo a dire che la voce dell'ultima trasmissione, una delle voci, non è qui presente perché ieri si è laureata, quindi facciamo un grande augurio, speriamo che sia ben smaltendo la sborna proprio ieri sera. E ora passo la voce a Dario che ci racconta un po' del 16. Appunto, la settimana scorsa avevamo anticipato che il 16 ottobre sarebbe stata una giornata di mobilitazione e uno sciopero sociale che avrebbe attraversato tutta l'Italia e ha attraversato anche l'Università La Sapienza. Il 16 ottobre il collettivo di Sapienza Clandestina ha occupato un nuovo spazio dentro l'Università. E dentro l'Università La Sapienza, le tre serrande occupate che si trovano sotto la facoltà di farmacologia e vicino medicina legale. Appunto, dentro l'Università abbiamo declinato questa giornata di sciopero sociale e attraverso la riappropriazione di uno spazio in seguito agli sgomberi di cui avevamo già parlato nella scorsa puntata, quindi gli sgomberi dell'aula portico di sociologia, del lucernario occupato e dell'aula di scienze politiche. Questa, la giornata del 16 appunto, è un primo passetto per noi, visto che pensiamo che durante l'autunno saranno tanti altri passi che andranno fatti per la riappropriazione di spazi e anche di tempi di vita dentro l'università. E già appunto dai primi giorni si è vista la risposta anche del mondo degli studenti e delle studentesse dell'università, che hanno iniziato ad attraversare lo spazio e che fin da subito hanno riconosciuto la necessità di riprendersi dei posti dentro l'università dove creare una socialità differente e anche dove banalmente sopperire a quelle che sono carenze strutturali dell'università, quindi aule studio che chiudano tardi e anche fino alle 10 di sera, e momenti che possano appunto far vivere l'università agli studenti e le studentesse non come un mero esamificio, ma anche come uno spazio da vivere e da sentirsi proprio. È stato un primo passo questo, speriamo veramente di farne altri ancora. Intanto vi invitiamo tutti a iniziare a passare al tre serrande occupato, e ricordo che tra le facoltà di farmacologia e di medicina legale La Sapienza è già cosparsa di indicazioni e cartelli che provano appunto a farvi trovare questo nuovo spazio, e le iniziative per venirci a trovare non mancheranno e le inizieremo a ricordare già più tardi. Grazie. Ora andiamo in diretta con Francesco dalla Sapienza. Ah no, mi dicono dalla regia che andiamo in diretta fra un momento. Vabbè, intanto ricordo un po' di date per la settimana. Innanzitutto ricordiamo che oggi e per tutti i mercoledì, diciamo ogni due settimane, faremo una trasmissione di cine clandestina, diciamo di trasmissione di film ovviamente gratuiti, e oggi alle 19 proietteremo Smetto quando voglio. gratuitamente, sempre ricordiamo, nello spazio delle Tre Serrande al Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia. Poi ricordo anche che ogni giovedì avremo un'iniziativa in cui faremo uno sguardo, diciamo, avremo uno sguardo sull'estero, su quello che avviene nelle università e non solo all'infuori della Nazione Italia. La settimana scorsa, giovedì, abbiamo fatto uno sguardo sugli USA, in cui abbiamo parlato di Ferguson, mentre questo giovedì, quindi domani alle 17, faremo uno sguardo su United Kingdom e parleremo un po' dell'Inghilterra e delle rivolte che avvengono e che sono avvenute in ambito universitario e non solo a Londra e nel Regno Unito. Inoltre ricordo a tutti e tutte che il 30, quindi settimana prossima, il 30 ottobre, ci sarà l'addio di Frati alla Sapienza e il benvenuto del nuovo rettore Gaudio. Ci sarà questo, diciamo, passaggio di poteri fra i due, che comunque noi saremo presenti e invitiamo tutti e tutte ad esserci. Sì, per quanto riguarda il calendario che faceva Arianna, appunto, come dicevo, non mancheranno i momenti per iniziare attraversare queste tre serrande occupate. E ricordo inoltre che già da oggi, per i ragazzi che stanno sentendo la radio e che si stanno recando all'università, offriremo al Pratone, per un momento di comunicazione, anche un pranzo sociale per farci vedere di nuovo per le vie della città universitaria, per rompere un po' quella triste quotidianità a cui ci vogliono costringere all'interno della Sapienza. Mentre, diciamo, per quanto riguarda anche le future mobilitazioni, sicuramente il 30 ottobre diventa anche una data ghiotta, no? dove poter dire un'altra volta ed esprimere un'altra volta il nostro sdegno per la gestione del rettore Frati, che per 6 anni di rettorato, 3 di prorettorato e un sacco di anni come preside della facoltà di medicina, si è caratterizzato per essere uno dei peggiori esponenti nel mondo delle istituzioni universitarie, passando per appunto l'approvazione a tutte le riforme che hanno ad oggi distrutto ormai il residuo di diritto allo studio e di università pubblica, arrivando fino a la più becera corruzione, il familismo, il parentelismo che lo ha contraddistinto in questi anni. E il 30 ottobre, oltre che appunto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe per nei confronti di Frati, la cosa più importante per noi è anche quella di far capire al nuovo rettore, quindi a Gaudio, sempre ex preside ormai della facoltà di medicina, che, come dicevamo settimana scorsa nella nostra piccola inchiesta, si pone in completa continuità con quanto fatto da Frati. Le uniche due parole che è riuscito a spendere sono quelle riguardanti più aule e una didattica migliore, no? Sempre questi termini molto generali, chissà cosa dovrebbe voler dire più aule in un'università dove si moltiplicano semplicemente i cantieri. E allo stesso tempo pensiamo appunto che fargli subito capire che il soggetto studentesco è un soggetto con il quale i rettori si devono confrontare per forza, che non potrà adottare lo stesso metodo di Frati, quindi di scappare continuamente da quelle che sono le vertenze che riescono ad arrivare fino alle loro stanze, e in qualche modo fargli capire che l'università oggi attraversa una profonda crisi, e l'università che appunto esce dalle macerie, no? Dalle macerie di questi ultimi 6 anni di crisi economica e di conseguenti tagli. In qualche modo, già da quella giornata vogliamo fargli capire che la difesa degli spazi è prioritaria per noi e che non lasceremo facilmente i nostri spazi, e che vogliamo anche parlare di quello che è successo prima, in qualche modo, dell'occupazione delle tre serrande, quindi anche dello spazio del Lucernario occupato, dell'aula portico di sociologia, dell'aula Mohamed Bannour a scienze politiche, che è stata rioccupata e subito sgomberata. Adesso mandiamo un po' di musica e ci rivediamo tra un paio di minuti. potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome. Ma qui nel giro mi chiamano spugna, eccomi qua. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo senza ritegno. Quel Peter Pan non mi ha fatto niente, però deve essere un gran fetente, perché lo dice il mio comandante. Mi fa una rabbia il fatto che vola, pur non essendo mai andato a scuola. Mentre io ci provo ma poi mi ritrovo a testa in giù. Tengo pure una certa età, son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo, bevo senza ritegno. Quel Peter Pan non mi ha fatto niente, però deve essere un gran fetente, perché lo dice il mio comandante. Mi fa una rabbia il fatto che vola, pur non essendo mai andato a scuola. Mentre io ci provo ma poi mi ritrovo a testa in giù. Lo so che non valgo molto, son livido, son sconvolto, c'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Ieri ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria, e questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino, ai suoi discorsi sono sempre presente, ma non so bene cosa abbia in mente. E non mi faccio più troppe domande, e non mi importa dove è il potere, finché continuo a darmi da bere. Non lo tradisco e fino all'inferno lo seguirò. Non lo tradisco e fino all'inferno lo seguirò. Non lo tradisco e fino all'inferno lo seguirò. In fondo non ci sono mica poi tanti modi di vivere, cioè di organizzarsi la vita. Si può vivere in uno, soli, in due, la famosa coppia, o in tanti, le famiglie di tipo matriarcale, le comuni, eccetera. Solo tre modi. Credevo di più. Ma non è questo il punto. Allora, sempre parlando appunto della giornata del 16 ottobre dentro l'Università della Sapienza, siamo in collegamento con Francesco, un altro compagno di Sapienza Clandestina, che ci racconterà meglio come è stata costruita la giornata del 16 ottobre dentro l'università e come si sono svolti questi primi giorni di occupazione al Tresserrande occupato. Francesco, mi senti? Ecco, sì, di tanto, buongiorno a tutti e tutte. Allora, vi racconto un po' questo 16, questo sciopero sociale dentro la città universitaria. Intanto adesso siamo anche la trasmissione in diretta dal Tresserrande per portare la voce dei Radio Onda Rossa anche all'interno della Sapienza. Sicuramente l'inizio è forse da datare ad agosto, quando, come più volte avremo ricordato, è stato sgomberato il lucernario occupato, che in un anno di attività all'interno della Sapienza aveva dato molto fastidio a rettore e questure di turno. L'idea di andarsi a riprendere uno spazio nella giornata di sciopero sociale è stata un po' il modo con cui noi abbiamo declinato questa giornata di sciopero, quindi mettendo in campo un momento di riappropriazione forte in cui da una parte riprendersi uno spazio in cui attivare progetti semplici come può essere un'aula studio, un cineforum clandestino e iniziative anche di approfondimento, e dall'altra un discorso ovviamente importante, grosso, di attacco diretto alla governance universitaria, a chi gestisce l'università nei suoi spazi e nei fondi, cioè il rettore di turno e i suoi vari amministratori, per dire che c'è una comunità di studenti e di studentesse che non aspetta in silenzio, che non si che non va a bussare alla loro porta per chiedere delle briciole, ma che partendo dai propri bisogni, dalle proprie necessità all'interno della Sapienza si va a riaprire quegli spazi che vengono lasciati all'incuria e all'abbandono. La giornata del 16 è stato questo, un'occupazione di prima mattina di questo spazio all'interno della sede di farmacologia, un ex magazzino lasciato abbandonato ed incustodito, e poi è continuata con un momento di comunicazione durato anche diverse ore in cui abbiamo bloccato e interrotto una serie di lezioni in dipartimenti diversi e poi abbiamo megafonato e volantiato in giro per tutta la città universitaria. Questa occupazione 16 è stato il via per uno o due giorni che è andata fino al 16 sera, ricominciando il giorno dopo con un'attività sul caro libri e momento di approfondimento sulla situazione nell'America alla luce dei fatti di Sergio. Sono 2 giorni che ho avuto lo scopo di far attraversare e far conoscere questo spazio che ad oggi dentro la città universitaria è tuttora uno dei pochi spazi liberati, uno dei pochi spazi autogestiti dagli studenti e dalle studentesse. E questa settimana, per un po' raccontare anche la calendarizzazione del Tre Serrande, daremo vita al cine clandestino oggi dalle 7 alla Sapienza, proiettando Smetto Quando Voglio, un appuntamento che sarà fisso ogni settimana, e domani invece uno sguardo negli UK per portare avanti questi momenti di approfondimento, raccontando insieme a un attivista e squatter inglese il movimento studentesco che ricorderemo del 2009 londinese e i riot di 2 anni dopo, le connessioni tra questi due movimenti e quali prospettive ci sono e quali prospettive di lotta ci sono a Londra. Quindi insomma questa giornata è una giornata importante perché viene a pochi anche giorni dal futuro insediamento di Gaudio e il saluto di Frati, che sarà il 30 ottobre, che ci vedrà anche lì protagonisti, in cui porteremo sicuramente la vertenza, la problematica degli spazi sotto al rettorato, ma non solo ovviamente, perché i problemi dell'università sono tanti altri, il peso che hanno i privati all'interno dei consigli di amministrazione, dei centri di ricerca, l'impossibilità degli studenti e studentesse di avere una garanzia per il diritto allo studio e anche in qualche modo la precarietà e la disoccupazione che ci aspetta dopo aver vinto questo foglio, che è una laurea che ha sempre meno valore. Porteremo tutte queste tematiche in quella giornata per dire che la Sapienza si deve dare un segno di discontinuità rispetto a quanto succede dentro e fuori l'università, ma sappiamo bene che in qualche modo è anche una provocazione, perché sappiamo bene che il futuro rettore è diretta continuità del magnifico rettore Frati, che continuerà sullo stesso piano nel portare avanti l'interesse dei privati e l'interesse delle proprie famiglie e rete clientelare che Frati ha creato in questi anni. E quindi a Gaudio siamo pronti subito a dirgli che ci stanno degli studenti e delle studentesse, dei collettivi che non sono che non hanno intenzione di stare in silenzio, di aspettare silenziosi il fine del proprio corso di studi, ma che si vorranno ribellare e ci troveranno pronti a reagire a qualsiasi altro cosa. Ok, grazie Francesco, allora alla prossima e buona giornata. Ora mandiamo altri 2 minuti di musica. Ciao. Ciao a tutti e a tutte. c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo? Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì. L'acqua scroscia, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. Son più cari perché sono anti forfora. Schiuma, hey you. Soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa sacra, è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra. Allora, siamo qui sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9 FM. E ricordo, oltre quello che diceva prima Francesco, che accennava velocemente, che alle Tre Serrande, insomma in generale nel progetto di Sapienza Clandestina, ci seguiamo anche tutta una parte, diciamo, sul più specifica sul caro libri, facendo questa operazione di book sharing, tale per cui i ragazzi che hanno bisogno di cercare libri possono venire da noi. Abbiamo una lista di 20.000, non mi ricordo, 60.000 libri, insomma un sacco di libri di più materie e più facoltà, ai quali gli studenti e le studentesse possono avere accesso portando la loro pennetta e scaricando gratuitamente in PDF i libri. E al riguardo lascio un contatto, che è quello di Francesco. La mail è fra.salusti@gmail.com per ottenere i libri. E adesso proviamo a collegarci invece, come abbiamo fatto la settimana scorsa con i compagni di Torino e con la radio di Torino, a collegarci con i compagni che si seguono l'università e non solo di Radio Info Out a Bologna. Sì, prima di collegarci con i compagni di Bologna, ci tengo a portare la mia solidarietà e quella di tutta la nostra redazione, anche della radio, a Angelo, ragazzo a cui ieri sono stati tramutate, è stato tramutato il divieto di mora da Bologna in arresti domiciliari per reati commessi il giorno della grande manifestazione, possiamo sicuramente dirlo, in Piazza Verdi, quando i compagni e le compagne dell'università, nel, se non mi sbaglio, maggio del 2013, cacciarono la polizia da Piazza Verdi dopo che questa aveva provato appunto a non permettere che si svolgesse un'assemblea pubblica in Piazza Verdi. Quella fu una grande giornata per l'Università di Bologna e sicuramente anche un esempio da riprodurre in altre università, e in qualche modo che può aver dato coraggio ad altre realtà, soprattutto in termini antirepressivi. In qualche modo quel giorno, dopo tanti anni, si è riuscito a dimostrare che gli studenti e le studentesse hanno ancora la forza di non far avvicinare questi squallidi soggetti delle forze dell'ordine nelle zone universitarie. È successo quel giorno a Bologna. Purtroppo Angelo e altri 5 compagni stanno pagando le conseguenze di quella giornata, e quindi hanno tutti il divieto di dimora da Bologna, e per Angelo da ieri sono scattati gli arresti domiciliari. E noi lo conosciamo bene Angelo, sappiamo che è un ragazzo forte, un ragazzo generoso, e che sicuramente non si farà intimidire dalla repressione che gli sta accadendo addosso, ma ci teniamo a mandargli un abbraccio forte. Purtroppo in questo momento abbiamo qualche problema a collegarci con i compagni di Bologna, tanto più che mi sa che stavano facendo una mobilitazione, quindi hanno forse qualche problema a risponderci al telefono. Intanto mandiamo un po' di musica. Dai Angelo, non mollare, siamo tutti e tutte con te. Trop vite, quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et aboli la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et de béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes.